Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. E approdiamo così al numero 408 di Soundcheck, il suono della musica di Radio 24 dal Groovemaster Studio. Buonasera a tutti voi amici di Radio 24, da Gegé Telesforo, e ancora una volta ben ritrovati qui nel Groovemaster Studio, barricati fra la nostra discografia, i nostri strumenti e tutte le informazioni che sono riusciti a racimolare proprio nell'ultima ora, credo, perché abbiamo deciso proprio all'ultimo momento di cosa parlare questa sera qui su Radio 24. Buonasera a Silvia Barba nel suo splendore. Buonasera a te, buonasera a tutti. E ciao. Questa sera in 3D, addirittura multicolor, Francesco Tromba. Ciao a tutti. Eccoci, siamo pronti. Sì, di cosa abbiamo deciso di parlare? Parlare di viaggi. Sì, di viaggi e di concerti. Di viaggi e di concerti, perché bisogna organizzarsi per affrontare la stagione estiva che è alle porte. Inizia a fare caldo, come vedi, ho anche acceso l'aria condizionata. E dobbiamo affrontare la stagione estiva e organizzare le nostre partenze per itinerari diversi, che saranno comunque sempre guidati dalle nostre scelte musicali, perché d'altra parte io personalmente in vacanza non ci vado quasi mai d'estate, perché lo sapete che i musicisti e gli artisti lavorano quando gli altri sono in vacanza, ma vorremmo suggerire agli appassionati di musica dei percorsi speciali per la prossima estate, ovvero di festival e concerti che non vanno assolutamente persi, soprattutto se siete dei viaggiatori. Quanto viaggiate? Beh, come te, io d'estate organizzo sempre i viaggi all'ultimo minuto in base ai concerti che devo fare o alle persone che devo andare a vedere. Quindi spesso i miei viaggi sono in base alla musica, ovvero seguo dei concerti, seguo dei festival, e allora organizzo all'ultimo minuto il mio viaggio prima di andare a vedere qualcuno. È molto interessante, è un itinerario musicale, se vuoi, una scelta musicale. Io quello voglio sapere da te poi più tardi. Come organizzi anche il tuo bagaglio da musicista e da appassionata di musica? La stessa cosa la voglio sapere da Francesco, che comunque nell'ultima ora ha avuto un'attività frenetica in internet per segnalare fra pochissimo i festival e i concerti più interessanti, non solo in Italia ma in giro per il mondo, soprattutto in quegli itinerari turistici molto apprezzati e seguiti dagli italiani. Sì, anche perché in Italia in realtà alcune date ancora non sono del tutto uscite, nel senso si sanno i periodi, però ancora non sono stati annunciati tutti gli artisti. Cioè, c'è sempre quel TBA, che significa a fianco al concerto to be announced, ovvero dobbiamo ancora avere le ultime informazioni, e lo mettono quando la formazione della band non è al completo o la location non è stata ancora dichiarata. Sì, anche perché spesso comunque i musicisti, soprattutto quelli internazionali, magari vengono presi all'ultimo momento per fare un concerto in Italia, perché magari sono lì di passaggio, hanno delle date di passaggio e riescono i festival italiani a bloccarli. Dunque, pensavo di organizzare quindi la puntata sulla musica e i viaggi, annunciando anche i concerti, perché proprio ieri sera ho sfogliato ancora una volta questo libro del mio amico giornalista super accreditato Ezio Guaitamacchi, che è un giornalista, un musicista, ma anche un abile viaggiatore, che ultimamente ha pubblicato L'Atlante Rock, viaggio nei luoghi della musica, e nella prefazione c'è proprio scritto: la musica è associata a immagini e le immagini a luoghi, luoghi a volte remoti, spesso fuori dai percorsi consueti, ma che sono stati testimoni di fatti, episodi, aneddoti e leggende che hanno fatto epoca. Non a caso, e ancora oggi, i loro nomi, e quindi lui cita Woodstock ma anche il Greenwich Village e via dicendo, evocano ricordi formidabili, suggestioni forti, emozioni intense a ogni vero appassionato. Sì, perché praticamente quando si viaggia alla ricerca di musica e si va per concerti, poi si torna a casa sempre con un sacco di ricordi, nuove amicizie e avventure trascorse, e di quello parleremo oggi. Soprattutto le nuove amicizie. Ecco. Sì, si fanno nuove amicizie. Beh, quando si certo. partecipa a festival, poi si incontrano amici, colleghi nuovi, si scambiano informazioni e nascono magari anche delle nuove opportunità di lavoro. Come no? E anche nuove opportunità di conoscere anche altri musicisti, perché magari uno va a un festival per un artista e ne incontra altri e poi comincia a seguirli e ad andare anche ad altri concerti a ascoltare altra musica. Bene, non ti sfugge nulla, Silvia. Hai visto? Ecco, sei preparata. Allora, però abbiamo anche tanta musica da presentare e ci sono delle novità e io vorrei dare il via intanto sai che abbiamo avuto un grande successo con la puntata dedicata agli italiani? Vedi, perché non li suoniamo spessissimo, quindi comunque anche i nostri ascoltatori in un certo senso si sono trovati un po' spiazzati e magari comunque è una cosa diversa. Ma ho notato solito. Invece un grande interesse proprio da parte degli artisti che forse hanno gridato quasi al miracolo, hanno detto come mai questi qui stanno suonando la nostra musica, ma noi siamo contenti di averlo fatto anche perché abbiamo segnalato delle cose molto interessanti, dai. Sì, sì, secondo me alcuni artisti sono assolutamente, li vedremo crescere. Bene, allora senz'altro non crescerà più perché ormai è cresciuto ed è un artista accreditato in Italia e nel mondo, è il nostro amico Joe Barbieri, bravissimo chitarrista, cantante, docente di musica e anche un eccellente compositore. Nuovo album per lui, direi di ascoltare subito questo brano tratto da Origami, che è il titolo della nuova produzione. Il brano è molto carino, molto elegante, si intitola Pane per i tuoi denti. Joe Barbieri al soundcheck di Radio 24. Joe Barbieri al soundcheck di Radio 24 è stato nostro ospite in una delle passate stagioni, ma magari cerchiamo, Francesco, di invitarlo per farci raccontare anche questa nuova avventura intitolata Origami. Oggi parliamo di viaggi, viaggi associati alla musica, certamente viaggi che vengono vissuti in maniera diversa, prospettive diverse dal musicista e dall'appassionato di musica. Il viaggio per un musicista è il momento più difficile del suo lavoro, anzi è quello che il musicista considera proprio il lavoro, perché poi quando sale sul palco è puro divertimento, come diceva Count Basie, lo abbiamo ricordato più volte. Count Basie, il grande maestro del jazz, direttore di big band, diceva: non mi pagano per queste 2 ore di concerto, ma per le 12 ore di pullman che facciamo. Invece diversa è l'organizzazione per un viaggio di un appassionato di musica che forse organizza la sua trasferta proprio come una vera e propria vacanza sottolineata da suoni e note. Sì, diciamo che la differenza principale è che mentre gli artisti viaggiano per tutto il mondo, però alla fine di vero e proprio tempo per vedere le città che visitano rimane veramente pochissimo, chi invece va ai concerti ha molto più tempo per guardare, per godere delle bellezze del luogo. È proprio così, anche perché di solito quando hai un tour serrato poi non fai in tempo a vedere nulla, vedi il casello autostradale o la stazione o l'aeroporto, quello senz'altro. E la camera d'albergo la quando camera arrivi. L'albergo, e poi il teatro, poi un ristorante per la cena, poi torni in albergo, il giorno dopo rivedi l'aeroporto, la stazione, la macchina e così via. Torniamo fra pochissimo, dopo Joe Barbieri, Tu mi dimentichi, e poi diamo il via alla nostra puntata. Soundcheck, il suono della musica. Anticipo subito che con Shazam non troverete informazioni su questo brano e forse non troverete nulla neanche in internet. Queste sono delle primizie che soltanto il soundcheck di Radio 24 può fornirvi il sabato e la domenica a partire dalle 19:15, e questa era la voce della nostra amica, bravissima vocalist americana residente a Brooklyn, nostra ospite qualche settimana fa, protagonista di Fans Low Ride ma anche del tour di Sons for Children, la fortissima Joanna Teeters, in compagnia di questo chitarrista che lei ha conosciuto quando frequentavano il Berklee College of Music lì a Boston, Balam Garcia. A primeira vez, che composizione, soprattutto che voce, ragazzi. Ma avete sentito che pronuncia in portoghese di Joanna? Sì, infatti come fa a cantare così bene? C'ha qualche parente portoghese? C'è una sola risposta, è una professionista. No, Silvia? Come no? Si studia un linguaggio diverso, una lingua diversa e si può cantare. Poi se c'è feeling con l'approccio musicale, qualsiasi lingua secondo me è plausibile ed è cantabile. Sì, certo, il portoghese aiuta, il portoghese è musicale al massimo. Il portoghese aiuta gli italiani ma non gli americani. No, perché fanno più difficoltà, cioè, certo. La pronuncia errata si sente di più. anche se senti Gretchen parlato che canta in portoghese, avverti che c'è qualcosa che non va. Beh, ma Giovanna, io me lo posso permettere perché ho i brasiliani in famiglia, quindi ti fanno le ripetizioni. No, io non parlo proprio perché parlo proprio come un idiota in portoghese, però capisco tutto e mi rendo conto che la pronuncia può essere più o meno giusta. Mia figlia, che invece parla portoghese perfettamente, mi ha detto: "Pai, ma Joanna canta benissimo in portoghese." Vedi? Ecco, allora possiamo fare i complimenti a Joanna Teeters. È vero. Allora, parliamo di viaggi e di musica oggi qui al Soundcheck di Radio 24, visto che stavamo ascoltando Joanna Teeters in portoghese, possiamo anticipare che quest'anno il Portogallo musicalmente si divertirà parecchio, perché ci sono dei festival molto belli, alcuni già sold out, sì. Quindi non c'è neanche bisogno di promuoverli, però perlomeno possiamo annunciare che cosa succede in quel paese bellissimo che noi italiani non consideriamo tanto rispetto, che alla Francia, alla Spagna, alla Grecia e altre località, o no? Sì, invece dal punto di vista musicale propongono dei cartelloni molto importanti come il Nos Live di Lisbona, che si svolgerà dal 6 all'8 luglio, purtroppo è già sold out, ecco. Da maggio. Si esibiranno i Glass Animals, Alt J, The Weeknd, Power of Stellar, Bonobo, gli XX, quindi comunque tutti un festival artisti. giovane, esatto. Un festival per giovani. Sì, un altro festival molto interessante è quello di Oporto, Nos Primavera Sound, dal 6 all'8 giugno, dove si esibiranno Flying Lotus, Ryan the Jewels, Sanfa, Bon Iver, Skepta, Aphex Twin. Tra l'altro l'abbonamento per tutti e tre i giorni è di 110 euro, quindi non è particolarmente esoso. Sì, 110 euro, quindi significa che il festival ha un budget suo per tenere i biglietti così bassi. Eh sì, perché comunque guardando la pagina degli sponsor vedi come ci sono tipo 2-3 pagine solo di sponsor. Certo, non si può organizzare un festival così soltanto con lo sbigliettamento, sarebbe un rischio, no? Poi la particolarità di questo festival è che una settimana prima, allo stesso festival, più o meno con la stessa line-up, si tiene a Barcellona, e a Barcellona chiaramente i biglietti costano di più. Un giorno a Barcellona costa 110 euro. Tutto il festival, più o meno, che si chiama Nos Primavera Sound, a Oporto costa 110 euro per 3 giorni. Ecco, direi allora a questo punto si risparmia, proprio perché sono riusciti a creare una sorta di itinerario, esatto, portoghese con un festival che si muove in location diverse, sì. Quindi i costi sono più bassi. Con meno artisti, ma più o meno gli stessi. Certo, questa è una cosa che noi dobbiamo spiegare agli amici in ascolto, che quando si organizzano i festival e si richiede la presenza su un territorio di un artista in esclusiva, il concerto costa di più. Se invece abbini le date, porti, che ne so, Flying Lotus in Italia, gli fa fare 5-6 concerti, alla fine ti costa senz'altro di meno. Si chiama sinergia, che in Italia è una parola che non si usa molto. Perché lo dici con quel sorriso? Sono un po' polemica con i festival italiani, ma ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo, non sì. Ne vuoi parlare subito? No. Non vuoi togliere spazio a Joanna Teeters, che sta per tornare. Esatto, voglio ascoltarla ancora. Sì, allora, parlando di viaggi e di musica, questo album, perché è un album, solo che non è stato pubblicato fisicamente, lo si trova soltanto in internet, è un album tra l'altro sconosciuto che Joanna Teeters ha registrato non tanto tempo fa, proprio in coppia con Balam Garcia. Che chitarrista questo ragazzo, riesce a suonare di tutto con una classe e un timing perfetto. Il brano che vi voglio far ascoltare porta alla luce anche poi la passione di Joanna per il reggae e per la musica di Bob Marley, ce lo ha dichiarato Francesco. Sì, ce l'ha raccontato che è uno dei suoi artisti preferiti. Il brano è famosissimo Is This Love, e questa versione mi fa venire la pelle d'oca. Joanna Teeters, Balam Garcia al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Smoke a lot, si fuma abbastanza, fumano abbastanza forse i ragazzi di Parables of Neptune. Sono due signori, una bella ragazza è un producer che è anche venditore di beat, quello che dice lui, no? Sì, vende i beat sul suo sito internet. Parables of Neptune. A me non dispiace per niente il sound di questi ragazzi assolutamente sconosciuti. Non so se saranno in tournée, affronteranno dei viaggi insieme quest'estate. Non si trovano tante informazioni. Loro si chiamano Lady Midnight e Afro Keys, però... Lady Midnight e Afro Keys, proprio nomi per non farsi rintracciare sì. dalla finanza. Infatti non ci sono informazioni né sui loro siti né su Bandcamp, difficilissimi da rintracciare. Si parla di viaggi al Soundcheck di Radio 24, annunceremo anche festival e concerti in Europa, nel mondo, e poi forse le tappe più importanti di alcuni artisti in Italia. Il tutto ci verrà segnalato da Francesco Tromba e Silvia Barba, che hanno studiato senz'altro più di me, anche perché io sinceramente l'estate non ho il tempo di andare a vedere tanti concerti, proprio perché li fai, li devo fare e devo affrontare anche la mia attività da musicista. E volevo far vedere a Francesco questa scheda. Sai che cos'è? Questa è una pagina del tour book che viene spedito adesso via internet dal tuo manager, e che ti dà tutte le informazioni data per data, ovvero venue, cioè dove si fa il concerto, con l'indirizzo, il numero del telefono e l'email del teatro o del festival, info del concerto, l'orario del soundcheck, mm-hmm. quindi tu sai che alle 17:30 hai il soundcheck e i tecnici ti stanno aspettando. Mm-hmm. Poi c'è showtime, ovvero 21:30 in questo caso, e si fa un set solo. Quando invece devi fare due set per motivi diversi ti viene segnalato, c'è scritto anche il prezzo del biglietto. Poi c'è i nomi dei responsabili tecnici, se tu hai bisogno di parlare con loro per esigenze di qualsiasi tipo. Hotel, vedi, con indirizzo, numero di telefono. C'è anche l'albergo, certo, da qualche parte devi dormire, che vai col sacco a pelo. Poi ci sono i contatti, ovvero il promoter, il manager, l'organizzatore, tutto. Poi vedi, c'è anche, vedi, transfer, cioè quanta distanza c'è dall'albergo al teatro o così sai a che ora devi partire dall'albergo. Sì, ma sai perché? Questo viene fatto per la cena, perché c'è chi vuole cenare prima, chi vuole cenare dopo. Dove si cena? Si cena in albergo o in un ristorante? Quanto dista il ristorante dalla location del concerto? Quindi che fai? Dopo il soundcheck vai a cena? Ce la fai se il concerto, insomma. Tu ad esempio preferisci mangiare prima o dopo il concerto? Io preferisco uno spuntino veloce e poi mangiare sempre poco dopo il concerto, con un bel bicchiere di vino che fa il suo effetto. Dopo il concerto ti rilassa e vai a dormire. Mi sono sempre chiesto, no, i cantanti, cioè, perché ne conosco diversi che mangiano prima, cioè, beh, ma a volte mangi prima perché vai in alcuni posti anche in Italia dove alle 11:30 mezzanotte non trovi nulla, quindi sei costretto a mangiare prima. E molte volte ti capita di salire sul palco che stai quasi per vomitare con lo stomaco pieno e gonfio, perché poi quando mangiano i musicisti hanno questa cosa, aggrediscono il cibo, ok? È una cosa nervosa, mangiano come se fosse il loro ultimo pasto, è vero Silvia? È vero, io purtroppo sono indisciplinata e mangio sia prima che dopo i concerti. Sì, come fai? Smaltisci tutto durante. Esatto, e poi per rifocillarmi faccio uno spuntino dopo il concerto. Invece una cosa bella che mi piace fare quando sono in vacanza e vado a vedere concerti e festival è non fare programmi. Non so se invece tu li fai. Beh, no, io l'unica cosa appunto è sempre quella del cibo, il problema del cibo, perché se magari si fa troppo tardi dopo il concerto inizio ad avere una crisi di fame e divento nervoso, potrei uccidere. Vabbè, ma i festival ormai sono tutti organizzati da quel punto di vista, tanti, no? Comunque, ti compri il panino con la porchetta, esatto, che piace a te, con l'anduia. Sì, tanti comunque puoi anche mangiare durante il concerto, però non mi piace molto questa cosa di mangiare durante il concerto perché mi distrae dalla musica. Ti distrae dalla musica. Bene, invece noi non vogliamo distrarci, e tra l'altro ci stiamo avvicinando anche all'informazione di Radio 24 che deve essere puntualissima come sempre. Ascoltiamo un altro brano di questi ragazzi. Dai, sì. Parables of Neptune, il brano è Better, e questo è veramente forte. Ci sentiamo fra pochissimo qui dal Groovemaster Studio per la seconda parte del Soundcheck. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Seconda parte del soundcheck di Radio 24, il suono della musica qui dal Groovemaster Studio con Francesco Tromba e Silvia Barba che stanno raccogliendo le loro notizie e informazioni sui festival estivi più importanti in Europa, in Italia e nel mondo, perché oggi parliamo della bellezza dei viaggi quando si viaggia a caccia di buona musica, ed è quello che devono fare con attenzione i grandi appassionati che devono organizzare anche il loro bagaglio. Quindi mi sa che nel bagaglio di un grande appassionato di musica non devono mancare i dépliant. Voi come girate? Vabbè, adesso con gli smartphone e i computer ti colleghi via internet e trovi tutte le informazioni, ma di solito una volta, da appassionato old school, bisognava stampare tutte le notizie sul festival, gli orari, che è quello che continua a fare mio padre, per esempio. No, vabbè, questo con gli smartphone ovviamente è passato quasi di moda. L'unica, secondo me, la differenza principale adesso è arrivare informati al festival, nel senso, sai bene che artista vai a vedere, sai come suona dal vivo, sai la produzione che ha fatto fino a quel momento, o no, ti presenti senza sapere niente, cercando di farti sorprendere, basta. Dalla musica. Sì, beh, può succedere nei grandi festival, perché nei grandi festival a volte il problema è questo: se gli artisti non hanno la possibilità nell'arco delle varie giornate di bissare il loro concerto, tu qualcosa poi alla fine te lo perdi, no? Perché negli stessi orari ci sono più eventi, e questa è una cosa che mi dispiace, perché magari a me piacciono anche i grandi artisti, ma mi piace anche scoprire delle cose nuove. E quelli sono i festival che mi interessano di più, quelli che ti danno la possibilità di apprendere cose nuove, perché i grandi nomi poi alla fine li hai visti, lo sai, no? Fanno il pienone, devi fare a cazzotti per entrare, pagare il biglietto. Invece mi piace andare proprio nei posti più piccoli, nei jazz club. Questa è la cosa bella dei festival. Sì, e poi sono gli artisti nuovi quelli che spesso ti sorprendono di più, perché comunque portano un elemento di novità, una cosa diversa rispetto ai grandi classici che già hai sentito, no? Ma voi, per esempio, durante il viaggio per arrivare al festival, ascoltate la musica che poi andrete ad ascoltare dal vivo? Nel CD, quando si viaggia con i musicisti si fa di tutto tranne che parlare di musica e ascoltare musica. Parla di altre cose, no? Ogni tanto quando c'è qualche nuova pubblicazione o grandi classici da ripassare lo si fa, però alla fine è così. Anche quando sei a cena con i musicisti difficilmente li senti parlare di musica. Giustamente. Si sa di cosa parlano i musicisti, no? Di che parlano? Del nuovo strumento. Ah, certo, proprio di quello. Cosa hai mangiato ieri? Sì, sì. Allora, vediamo questi festival. Quali festival vuoi segnalarci adesso? Beh, potremmo parlare di Umbria Jazz, dove in realtà Umbria ci Jazz. Sono comunque un po' sempre i soliti. Quando parte il festival? Sempre a luglio, dal 7 al 16 di luglio a Perugia. Quest'anno la novità è che ci sono i Kraftwerk, diciamo, come Umbria Jazz. Sì, come artista un po' fuori dai canoni soliti, no? Poi ci saranno anche Jamie Callum, Paolo Fresu e Yuri Kane, Didi Bridgewater, Enrico Rava, Thomas Stanco, Fabrizio Bosso, Angeli Chigio, Jacob Collier, Christian McBride, Wayne Shorter. Vabbè, si va sul sicuro, non ci sono novità invece? Nessuna, diciamo, sperimentazione particolare. Cioè, poi, giovani artisti non ne hai trovati? No, niente di trascendentale. Vabbè, cartellone proprio da un classico, sì. Classico. Poi c'è il Locus Festival, che partirà il 9 Locus luglio. Locus Festival è a Loco Rotondo in Puglia. Sì, esatto. Dove oltre al festival si trova del vino eccezionale. Sì. Dal 9 di luglio al 12 di agosto si esibiranno Bonobo, Robert Glasper Experiment, gli Heliocentrics, Daimea Rosena, Bocanté, Benjamin Clementine, Youssef Kamal, però solo nella parte di Kamal, nel senso che si sono separati. Solo Kamal. Sì, c'è un nuovo quartetto. Anche Niccolò Fabi, che festeggerà i suoi 20 anni di carriera. Quindi poi, anche qui però... Sì, diciamo niente di trascendentale. I nomi più interessanti ci sono al Lucca Summer Festival, che partirà dal 14 giugno e arriverà fino al 23 settembre. In una sera ci saranno insieme Erika Badu e Mary J. Blige, concerto molto interessante. Mamma mia! Poi ci sarà anche Kamasi Washington. Ma fanno due set diversi o cantano insieme? No, cantano nella stessa sera, però due set diversi. Faranno a cazzotti le due? Immagino a cazzotti. artisti veri, proprio questo... chi apre il concerto dell'altro, perché sì, queste cose succedono, come faranno? A poi, capelli. Poi due prime donne comunque, Tu, te l'ho detto Silvia, io ho visto Mary J. Blige a Los Angeles, al Gibson Theater, e ad aprire il concerto c'era D'Angelo. Lo so, lo ricordo sempre con molto affetto questo aneddoto. Poi? Poi a Villada, in realtà tanti nomi ancora non sono usciti, però ci saranno Villada a Roma, inizierà i primi di giugno, ci saranno Kamasi Washington, Nadine Di Franco, i Lucky Chops, tanti altri nomi che ancora devono essere annunciati. Ecco, questo è un festival un po' più aperto, sì, musicalmente. Di solito comunque anche a livello di generi si spazia molto. Bene, allora vorrei segnalarvi invece la pubblicazione di un nuovo album per una vocalist italiana che sta un po' in disparte, però quando realizza i suoi dischi li fa molto bene. E questa vocalist che io insomma stimo molto anche per le scelte musicali fatte nella vita è Francesca Sortino. Il brano che vi voglio presentare è una composizione di Freddie Hubbard, naturalmente rivisitata, il brano è Little Sunflower. Sì, è un brano del 1967 che Francesca Sortino ha voluto rivisitare con il suo stile. È un album, questo si chiama Be Free, questa nuova produzione, che spazia appunto dal mondo del jazz alla black music all'elettronica, proprio perché lei riconosce nel beat originario anche tutto quello che poi è venuto dopo, quindi è un riconoscimento delle origini del jazz attraverso il beat della musica afroamericana. La cosa bella è che per fare questo ha richiesto la collaborazione di suo figlio, ecco, che naturalmente c'ha il piglio contemporaneo. Francesca Sortino con Little Sunflower al soundcheck di Radio 24. Complimenti Francesca. Soundcheck, il suono della musica. The Pines, brano scritto e realizzato dal pianista tastierista Bill Lawrence, membro degli Snarky Puppy, e con gli Snarky Puppy questo signore ha girato tutto il mondo e continuerà a farlo anche come solista. Certamente ragazzi, gli Snarky Puppy hanno un'attività incredibile, frenetica, non so quanti album abbia prodotto quest'anno Michael League, non so quanti concerti sono riusciti a fare, ed è difficilissimo portare in tournée una band che è anche così numerosa. Sì, infatti a livello di posti immagino sia abbastanza importante già solo prendere un aereo per tutti i componenti della band. Questo è uno degli aspetti complessi nell'organizzazione di un festival, che sia jazz o altro, perché il direttore artistico con i suoi collaboratori deve considerare le esigenze non solo della band ma anche dei singoli musicisti che segnalano nel rider varie necessità. C'è addirittura chi è allergico naturalmente alla polvere, quindi ha bisogno di un certo tipo di materasso o di cuscini se non si porta il suo. C'è chi è vegano, c'è chi è buddista o musulmano, quindi mangiano certe cose. È una cosa molto complessa. E come dicevi tu, che bisogna organizzarsi quando si è in giro con il cibo, forse quello è uno degli aspetti più complicati, perché ormai se ne leggono e se ne vedono di tutti i colori. Tipo una delle richieste più strane che ha fatto un membro della tua band o comunque della mia band? Musicista. Beh, che non so, conosci. Io ho girato con musicisti che soffrivano e soffrono di celiachia e quindi bisognava stare attenti. Se nel posto dove vai a suonare c'è solo la pizzeria, siamo fregati, ci deve portare sempre qualcosa da casa. E altre volte è successo che questo musicista, che è anche famosissimo in Italia, uno dei più forti del nostro paese, si lamentava perché quando entrava nei ristoranti, questo qualche anno fa, adesso molti ristoranti sono preparati alla celiachia, quindi a gente che non può mangiare glutine, quindi pasta e pane, quello che mangiamo tutti noi, si lamentava perché dice: io sono celiaco ma non sono a dieta, perché gli portavano due foglioline, un pezzettino di salmone, no? È così. Però sì, quello è uno degli aspetti complessi nell'organizzazione di un festival. Per ottimizzare i costi, i grandi gruppi, le grandi band viaggiano con il bus, con i letti. tutti, durante la notte viaggiano, poi arrivano in hotel, perché comunque l'hotel è previsto per gli artisti, si riposano, si fanno una doccia e vanno al soundcheck e poi al concerto. Questo me lo raccontava Antonio Sanchez qualche settimana fa, che lui con Pat Metheny, sia Unity Group che adesso con il quartetto, viaggiano e con tutto il backline in un bus dove dormono durante... Ci sono i letti nel bus. Certo, certo. Io l'ho fatto in Germania, ma già diversi anni fa, in tour con la Gorgeous All Stars di Ben Sidran. È anche molto divertente. Certo, devi andare d'accordo con tutti. Esatto, si può rischiare di perché in quel caso non hai neanche il tempo di poter staccare un attimo, no? Certo. Proprio fisicamente dal resto della band, perché non vai in albergo, stai sempre lì sul palco, nell'autobus e così via. Quindi anche i musicisti devono essere scelti con determinate caratteristiche. Se il trovi quello scorbutico e scontroso è un guaio se te lo porti in giro. Esatto. Allora, di che festival vogliamo parlare velocemente? Del Montreal Jazz Festival, visto che comunque si esibirà... Andiamo in Canada? Sì, si esibirà lì Michael League, tanto visto che stavamo parlando degli Snarky Puppy. Questo festival si svolgerà dal 29 di giugno all'8 di luglio e si esibiranno Ambrosa Kim Musier, The Bad Plus, Bill Frisell, Brian Blade, Kendrick Scott, Joshua Redman. Quindi questo è proprio un jazz festival? Sì, un jazz festival con tanti nomi, anche Tigran Amasian, Vijay Iyer, Dave Douglas, Jacob Collier, quindi tutti nomi fortissimi, vi consiglio se contemporanei, siete in anche perché adesso esistono, cioè sono in vita solo i contemporanei, sì, no? Diciamo, cioè old school, chi è rimasto che va in giro? Herbie Hancock, che poi è quello più moderno di tutti, però, che in realtà no? musicalmente credo ancora oggi è quello che ha inventato, dai, il sound contemporaneo con Wayne Shorter, che pure in attività con orchestra, big band, tra l'altro mi pare che Wayne Shorter sarà a Umbria Jazz con l'orchestra. Non so se sarà in tournée invece il nuovo progetto prodotto da Michael League e Snarky Puppy, che si chiama Bocanté, con la partecipazione della vocalist Malika Tyrolian, che è canadese anche lei, no? Quindi, sì, sarà al Locus Festival. Chi? Il progetto? Bocanté, sì. Ma è fantastico, sì. Questo. Questa è una cosa da vedere, questo mi incuriosisce molto. E Michael League sarà lì? Penso di sì. Pensi di sì. Allora, ascoltiamo qualcosa da Bocanté, nuovo progetto per Michael League e Snarky Puppy, con Malika Tyrolian. Il brano per me è impronunciabile, quindi ve lo faccio solo ascoltare. Soundcheck, il suono della musica. Il suono ormai riconoscibile degli strumenti costruiti proprio per lui, quelli di Christian Scott, giovanissimo trombettista americano che si è fatto notare con una serie di album molto interessanti, soprattutto Stretch Music, pubblicato poco più di un anno fa. Noi lo abbiamo intervistato proprio subito dopo il concerto fatto a Perugia, concerto di presentazione per questo progetto che discograficamente colpì tutti noi proprio per l'impatto sonoro, un sound potentissimo, quasi come se fosse stato masterizzato dagli ingegneri del suono del Paisley Park di Prince. Christian Scott, che fa Christian Scott? Torna in Italia quest'estate? No. Non ci sarà in Italia. Non viene in Italia? No. C'è il disco nuovo? Ma non è presente. Non in ti Italia. Sembra che venga in Italia? No, però ora no. Non per so esempio poi... una che a me piace tantissimo, no? Lian La Havas viene in Italia? No. Non viene? No. Chance the Rapper viene in Italia? No, va in Inghilterra. Va in Inghilterra. E qui chi viene? Vabbè, quelli che hai annunciato, sì, quelli che abbiamo annunciato prima. Sempre gli stessi vengono però. Più o meno, evidentemente comunque si punta sulla sicurezza. Ma un sassofonista, per esempio, della nuova generazione, parlando di Christian Scott, per esempio, ci sono adesso gli elementi della sua band, no? Che hanno iniziato a pubblicare le loro cose. Questo ragazzo che noi abbiamo suonato si chiama Braxton Cook, viene in Italia? No. Non viene neanche Braxton? Per ora no. Nessuno. Guarda, dobbiamo farlo noi un festival, Francesco. Guarda. Il soundcheck... Soundcheck Festival, io sono pronto. Per favore, se ci sono imprenditori senza scrupoli che hanno voglia di investire, noi siamo operativi e siamo sul mercato, e lo voglio dire proprio, lo voglio dire anche a Radio 24. Noi siamo operativi per organizzare il nostro Soundcheck Festival, ma prima o poi lo faremo. Cerchiamo gli sponsor, facciamolo anche noi. Quella è la cosa più difficile in Italia, che sono finiti i soldi. In effetti, sì, è vero. Per la musica, poi bisogna rifare le strade. strade qua, ci stanno ancora gli amici che hanno purtroppo subito il terremoto, che stanno senza casa. Dai, abbiamo ragazzi, altri di che cosa, ma di cosa parliamo? Abbiamo altri problemi. Va bene, altri festival, quindi tu dicevi Londra. Sì, allora intanto Inghilterra, perché Lewes vicino Brighton, dal 30 giugno al 2 luglio ci sarà il Love Supreme Festival, dove ci saranno i Bad Bad Not Good, Herbie Hancock, Gregory Porter, ma anche Christian Scott, Jordan Rakey, Makaia McCraven, Kamasi Washington, la tua preferita Beck Stevens, Miles Mosley, Nubian Twist anche. Ma questo è un festival fantastico per noi. Questo sembra il Soundcheck Festival. Sì, somiglia questo un po'. Guarda, potremmo andare. Quando c'è? Il 30 giugno, dal 30 giugno al 2 luglio. Questo 30, weekend 30 qui. Giugno, è un weekend. Sì. E noi come facciamo? Stiamo qua in radio? Non possiamo, infatti. Però qualcosa possiamo inventarci. Tra l'altro Londra, come dico, con i voli low cost veramente ci viene a costare anche poco. Dai, un festival, ragazzi, andate a vedere questo festival, dai, dall'Italia, che sono un'ora e mezzo di volo, non ci vuole niente, non ci vuole niente, è facile. Dai, poi Londra è una città fantastica, bellissima. Non è a Londra, è vicino Brighton. Brighton come ci sei stato? No, non ci sono stato. Vabbè, andiamo in internet, andiamo a vedere dove si mangia e che cosa si mangia a Brighton, perché ho capito che quella è la cosa importante. No, non è quella l'unica cosa importante. La musica è la cosa più importante. Ma quella c'è, l'hai letto? Sì. Quella c'è, va bene. Chi ha detto prima Braxton Cook? Tu. Ah, l'ho detto io. Sì. Braxton Cook, quanto mi piace questo disco, si intitola Somewhere in Between. Questo è da tenere d'occhio, si chiama Braxton Cook, è veramente forte. I Can't, al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Non so che altro dire, non so come presentarla, non so come comunicare tutta la mia gioia e la mia passione per Becca Stevens, che domani sarà protagonista del nostro Soundcheck qui su Radio 24 a partire dalle 19:15, proprio perché finalmente presentiamo questo album capolavoro intitolato Regina. Invece questo era un brano tratto da Perfect Animal, anche questo un album sorprendente realizzato da questa chitarrista, cantante, arrangiatrice e compositrice che arriverà in Italia per partecipare alle masterclass e quindi forse anche una performance dei concerti a Siena Jazz, giusto? Esatto, sarà una docente di canto e di combo insieme anche a Theo Blackman, Diana Torto e Suzanne Abuel, che è una cantante tedesca, e a Siena Jazz è molto bella l'atmosfera, devo dire. Puoi andare... Quando si fa Siena Jazz? Si fa a luglio. A luglio? E si scelgono delle settimane. Ci sono... Va bene, tanto sul sito si trovano tutte le informazioni. Si trovano tutte le informazioni. Informazioni più dettagliate, ed è un'atmosfera bellissima perché si suona, si sta con i docenti, si parla di musica. Preparerò il mio bagaglio da appassionato di musica e da studente per andare a Siena Jazz ad apprendere cose nuove, perché questa è la bellezza della musica, non si finisce mai di imparare. Quindi vi consiglio di ascoltare la puntata di domani qui del Soundcheck, perché parleremo di questo album che secondo me è un capolavoro proprio nella produzione. Chi lo ha prodotto, tromba? Michael League degli Snarky Puppy. E andando anche a giocare a baseball a Central Park, perché così hanno racimolato soldi con per Pledge Music per la produzione. Becca Stevens chiude il soundcheck di oggi proprio con il title track di questo album, con Regina. Io sono impazzito per questo album. Mi piace lei, mi piace l'album, non so più che altro dire. Ci risentiamo domani qui su Radio 24 alle 19:15. A tutti voi buona serata da Giorgio Telesforo, Silvia Barba e Francesco Tromba. Carved a heart in a dogwood tree.